il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La difesa dell'ambiente e del territorio è una delle priorità oggi per l'Italia intera e per il Veneto. Ne abbiamo parlato più volte nella nostra trasmissione. Oggi facciamo il punto di ciò che sta facendo la Regione Veneto con Maurizio Conte, assessore all'ambiente. Assessore Conte, anche quest'anno abbiamo visto che ci sono stati in varie parti d'Italia problemi, soprattutto dal punto di vista idrogeologico, nel Veneto forse qualcosa di meno, però la situazione è comunque in stato di controllo. Che cosa sta facendo la Regione, cosa si è fatto in questo 2013 e quali sono un po' le prospettive per l'anno prossimo dal punto di vista ambientale? I cambiamenti climatici non permettono appunto di stare a guardare, bisogna intervenire. Proprio per questo che dal 2010, dalla grande alluvione, il Veneto ha iniziato un percorso di pianificazione di interventi che riguardano criticità, che riguardano varie zone del territorio legate appunto a quelli che sono corsi d'acqua, fiumi, che molto spesso nel passato hanno avuto una scarsa attenzione, soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo e l'occupazione urbanistica. In questo momento quindi la Regione sta guardando con attiva operatività a quello che è la realizzazione di opere importanti, strutturali, come le casse di espansione, che devono garantire in momenti di piena lo sfogo delle acque, questo nella zona soprattutto della pedemontana. Ma si guarda anche alla manutenzione, di quegli argini, di quei corsi d'acqua che appunto nel passato hanno presentato criticità sicuramente importanti e a rischio per il territorio, per l'incolumità dei cittadini. Quindi opere che hanno bisogno di risorse, proprio questo è l'aspetto della criticità legata al patto di stabilità, perché la difficoltà di reperire delle risorse poi aumenta perché non si possono pagare le imprese che realizzano le opere per i limiti di quel patto di stabilità che non permette la spesa da parte delle regioni e degli altri enti. Proprio per questo che ci siamo attivati anche come regioni per chiedere al governo di togliere quel patto di stabilità che sicuramente potrebbe innescare anche un'accelerazione della realizzazione di certe opere fondamentali per la sicurezza. Ecco, ma a che punto siamo sulle opere, in particolar modo quelle previste dopo l'alluvione del 2010? Beh, un esempio è la cassa di espansione di Caldogno, che serve il Frassina e tutta la sicurezza della Bassa Padovana, che sono iniziati i lavori, sono stati affidati i lavori e entro due anni sarà realizzata. Opere che riguardano poi quella di Trissino, che anche questa a breve avrà l'affidamento dei lavori, opere come quella nel Veronese di Monteforte d'Alpone, due piccole casse di espansione che saranno sicuramente importanti per la sicurezza di quell'area, ma soprattutto anche la manutenzione degli alvei, la pulizia, quello che si sta realizzando con interventi mirati che mettono in sicurezza sicuramente tratti critici di vari fiumi, dal Muson di Sassi al Bacchiglione a opere che sicuramente poi sono fondamentali. L'obiettivo importante è ad esempio quella del Piave, un fiume che presenta molto materiale, una riduzione di quello che è la capacità dell'invaso, proprio per questo che stiamo lavorando proprio con gli imprenditori legati alle attività estrattive per fare un accordo di programma che non costi niente alla Regione, ma che con il recupero dei materiali inerti possa pagare circa un centinaio di milioni di opere che sono fondamentali, tra cui quello della zona del Pra dei Gai, che sarà completata la cassa di espansione che è in fase di definitiva autorizzazione. Ecco, visto che parliamo di cave, quella delle cave è una questione importante che è stata anche parecchio dibattuta, sono previste delle novità su questo fronte, mi sembra. Sì, abbiamo appena adottato il nuovo piano regionale delle attività estrattive, un piano che guarda soprattutto a una definizione di criteri chiari e modalità uguali per tutto il territorio veneto, quello per garantire che appunto non ci siano zone più avvantaggiate o più svantaggiate, dipende da come la vediamo rispetto al resto del territorio. L'obiettivo è quello di non occupare suolo, quindi non più nuove discariche, ma completamento di quelle esistenti, soprattutto con l'obiettivo di un recupero ambientale di queste cave, il blocco dell'escavazione in falda, quindi non si potrà più contaminare quelle che sono le falde acquifere per garantire appunto la qualità di un bene primario come l'acqua, e dall'altra parte guardare a quello che può essere un riutilizzo delle cave esistenti, soprattutto magari per casse di espansione o per attività che vanno al di là dell'agricoltura, ma che possono essere sicuramente interessanti per non abbandonare queste aree e quindi metterle a rischio di contaminazione o ambientalmente a rischio. Ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo per l'assessore all'ambiente della Regione Veneto, Maurizio Conte. Stiamo facendo un po' il punto di quest'anno delle politiche in tema ambientale della Regione. Un po' il centro di molte delle attività della tutela ambientale è l'ARPA, un ente che sappiamo ha avuto alcuni problemi e c'è in atto una ristrutturazione che ha già comportato anche dei miglioramenti. Siete riusciti questa riorganizzazione ad avere dei risultati sia dal punto di vista del risparmio economico senza per questo venir meno a quelle che sono le sue competenze, la tutela che garantisce? Beh, ARPA è l'agenzia regionale che è fondamentale per la prevenzione, monitoraggio ambientale e della salute pubblica. Quindi per noi è fondamentale garantire quel servizio di qualità che ha sempre dimostrato come ARPA regionale e soprattutto riconosciuto a livello nazionale. Questa è legata alle professionalità, guardando una riorganizzazione che non comprometta questo servizio, che riduca quelli che possono essere sprechi o settori che possono essere razionalizzati, è proprio per questo che si è giunti a un percorso che sta definendo quello che è stato l'esposizione forte dovuta a investimenti immobiliari e recuperando invece quella che è l'investimento sulla professionalità e sul servizio. Quindi penso sia questo un percorso che dopo 2 anni finalmente sta dando i primi risultati, soprattutto nel garantire che quelle professionalità che abbiamo e ci sono all'interno appunto di ARPA siano una garanzia per la salute pubblica. Ultima domanda, siamo a Natale, si accendono le luci, le luminarie, però si parla anche di inquinamento luminoso, di limitare l'inquinamento luminoso. Su cosa state lavorando? Questa è un'azione che la Regione sta portando avanti, soprattutto collaborando con i comuni. Abbiamo finanziato, compartecipando. Il settore dell'inquinamento luminoso è sicuramente fondamentale, con i comuni si sta collaborando proprio per pianificare interventi strutturali di riduzione dei consumi energetici inquinando meno e soprattutto inquinando per quanto riguarda l'inquinamento luminoso, quindi sostituzione di reti obsolete, guardando tecnologie nuove che vanno al risparmio energetico e che possono sicuramente dare una mano anche ai bilanci regionali. Abbiamo finanziato più di 130 comuni per la realizzazione di piani di riduzione dell'inquinamento luminoso, adesso punteremo proprio sul contribuire alla realizzazione di nuovi impianti, di nuove reti che possono dare una mano proprio in questo settore. Grazie. Prego, arrivederci. E passiamo adesso alle consuete notizie. Un emendamento alla legge di stabilità approvato lo scorso 12 dicembre in Commissione Bilancio della Camera interviene sulla normativa riguardante l'alienazione e la locazione dei terreni demaniali agricoli a vocazione agricola non utilizzabili per altre finalità istituzionali e di proprietà dello Stato. È stata inserita una riserva dell'ordine del 20% a favore della locazione dei terreni in questione da parte dei giovani imprenditori agricoli che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni. Favorire i giovani imprenditori nell'accesso alla terra, ha commentato il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, è fondamentale per incentivare il loro ingresso nel mondo dell'agricoltura, facilitando così il ricambio generazionale che è una priorità per il comparto e per tutto il paese. La nuova PAC, la politica agricola comunitaria, porta con sé anche il rinnovo della politica europea nel settore della pesca. Se ne è parlato in questi giorni a Taglio di Po in un seminario organizzato dall'Alleanza delle Cooperative Italiane. Tra le principali novità emerse e attese si evidenziano in particolare il rafforzamento del criterio del rendimento massimo sostenibile, l'obbligo di sbarco delle specie soggette a limiti di cattura o nel Mediterraneo a taglia minima e un nuovo approccio decisionale attento alle realtà regionali. Per quanto riguarda invece il nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, la situazione è meno chiara perché sembrano ancora distanti le posizioni tra i colegislatori, ovvero la Commissione Europea, il Parlamento e il Consiglio d'Europa. Concludiamo con una notizia più leggera, è l'agriturismo Lunardelli Roberta di Musile di Piave, il vincitore della manifestazione I funghi incontrano le tipicità alimentari e la cultura del territorio, organizzata dall'Assessorato all'Agricoltura della provincia di Venezia. Tra i 9 finalisti, quasi tutti agriturismi, a spuntarla è stato però un secondo piatto a base di oca arrostita con contorno di cardi, zucca e melograno. Nonostante il titolo, infatti, l'iniziativa, svoltasi in 12 serate dal 5 al 29 novembre in agriturismi e ristoranti del Veneziano, e conclusasi l'11 dicembre a Villa Ducale di Mira, ha visto protagonisti menù a base di prodotti tipici e stagionali del territorio. Complimenti al vincitore. E con questa notizia si concludono le puntate del 2013 del Quadrifoglio, che tornerà in linea il 7 gennaio. Vi ricordo quindi che potete riascoltare le puntate dell'anno in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it e, dandovi appuntamento all'anno nuovo, auguro a tutti un sereno Natale. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.